Vangelo di Marco, capitolo quindicesimo. E subito la mattina i capi sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, tenuto consiglio, legarono Gesù e lo menarono via e lo misero in man di Pilato. E Pilato gli domandò: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispondendo gli disse: «Sì, lo sono». E i capi sacerdoti l'accusavano di molte cose, e Pilato da capo lo interrogò dicendo: «Non rispondi tu nulla? Vedi di quante cose ti accusano?» Ma Gesù non rispose più nulla, talché Pilato se ne meravigliava. Or, ogni festa di Pasqua, egli liberava loro un carcerato qualunque chiedessero. C'era loro in prigione un certo tale chiamato Barabba, insieme a dei sediziosi, i quali nella sedizione avevano commesso omicidio. E la moltitudine, venuta su, cominciò a domandare che facesse come sempre aveva fatto. E Pilato rispose loro: «Volete che io vi liberi il re dei Giudei?» Poiché capiva bene che i capi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi sacerdoti incitarono la moltitudine a chiedere che piuttosto liberasse loro Barabba. E Pilato da capo replicando diceva loro: «Che volete dunque che io faccia di colui che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» E Pilato diceva loro: «Ma pure, che male ha egli fatto?» Ma essi gridarono più forte che mai: «Crocifiggilo!» E Pilato, volendo soddisfare la moltitudine, liberò loro Barabba e consegnò Gesù, dopo averlo fragellato, per essere crocifisso. Allora i soldati lo menarono dentro alla corte, che è il pretorio, e radunarono tutta la coorte, e lo vestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine, gliela misero intorno al capo, e cominciarono a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!» E gli percotevano il capo con una canna e gli sputavano addosso, e postesi in ginocchio si presentavano dinanzi a lui, e dopo che l'ebbero schernito lo spogliarono della porpora e lo rivestirono dei suoi propri vestimenti e lo menarono fuori per crocifiggerlo. E costrinsero a portare la croce di lui un certo Simon Cireneo, il padre di Alessandro e di Rufo, il quale passava di là tornando dai campi. E menarono Gesù al luogo detto Golgota, il che interpretato vuol dire luogo del teschio. E gli offersero da bere del vino mescolato con mirra, ma non ne prese. Poi lo crocifissero e si spartirono i suoi vestimenti, tirandoli a sorte per sapere quel che ne toccherebbe a ciascuno. Era l'ora terza quando lo crocifissero, e l'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva: «Il re dei Giudei». E con lui crocifissero due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. E si adempì la scrittura che dice: «Egli è stato annoverato tra gli iniqui». E quelli che passavano lì presso lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo: «Ah, tu che disfai il Tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso e scendi giù di croce». Parimente, anche i capi sacerdoti con gli scribi beffandosi dicevano l'un all'altro: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora giù di croce affinché vediamo e crediamo». Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. E venuta l'ora sesta, si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona. E all'ora nona Gesù gridò con gran voce: «Eloi, Eloi, lama sabachthani», il che interpretato vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Ed alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia». Ed uno di loro corse ad inzuppata d'aceto una spugna e, postala in cima ad una canna, gli diede da bere dicendo: «Aspettate, vediamo se Elia viene a tirarlo giù». E Gesù, gettato un gran grido, rendé lo spirito. E la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo. E il centurione che era quivi presente di rimpetto a Gesù, avendolo veduto spirare a quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era il figliuolo di Dio». Or v'erano anche delle donne che guardavan da lontano, fra le quali era Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo il piccolo e di José e Salomè, le quali, quando egli era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Ed essendo già sera, poiché era preparazione, cioè la veglia del sabato, venne Giuseppe d'Arimatea, consigliere onorato, il quale aspettava anch'egli il regno di Dio, e preso ardire si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che egli fosse già morto, e chiamato a sé il centurione gli domandò se era morto da molto tempo, e saputolo dal centurione donò il corpo a Giuseppe, e questi, comprato un lenzuolo e tratto Gesù giù di croce, l'involse nel panno e lo pose in una tomba scavata nella roccia, e rotolò una pietra contro l'apertura del sepolcro. E Maria Maddalena e Maria madre di José stavano guardando dove veniva deposto.